9. L'altra metà della storia, seconda parte. Quasi 2000 anni fa, sulle sponde del lago di Tiberiade, in Galilea, un giovane ebreo gentile e caritatevole accusò le classi dominanti del suo tempo, non solo i ricchi e i potenti, ma anche le autorità religiose, di sfruttare e opprimere il popolo di Palestina. Egli predicava l'amore universale e insegnava che i miti, gli umili e i deboli, avrebbero un giorno ereditato la terra. Inoltre, con le parole e con i fatti, spesso rifiutava la condizione di sottomissione e segregazione in cui la propria cultura relegava le donne. Frequentandole liberamente, cosa che ai suoi tempi era già di per sé una forma di eresia, Gesù proclamava l'uguaglianza spirituale di tutti gli esseri umani. Non sorprende che le autorità dell'epoca, ligie alla Bibbia, considerassero Gesù un pericoloso rivoluzionario, le cui idee sediziose andavano soffocate a tutti i costi. Quanto fossero davvero radicali queste idee dal punto di vista di un sistema androcratico in cui il predominio dell'uomo sulla donna era il modello di ogni dominio umano, è espresso succintamente in Galati 3:28. Qui leggiamo infatti che per chi segue il Vangelo di Gesù non c'è più né giudeo né greco, né schiavo né libero, né uomo né donna, perché tutti siete un solo uomo in Gesù Cristo. Alcuni teologi cristiani hanno sostenuto che Gesù era femminista, perché anche solo dai testi ufficiali o sacri risulta chiaro che egli rifiutò la rigida segregazione e sottomissione delle donne del suo tempo. Ma il fine principale del femminismo è la liberazione della donna, quindi chiamare Gesù femminista non sarebbe storicamente esatto. Sarebbe più appropriato dire che gli insegnamenti di Gesù incarnano un'idea gilanica dei rapporti umani. Questa idea non era nuova. E come abbiamo visto, era contenuta anche nelle parti dell'Antico Testamento conformi a una società di tipo mutuale. Ma questo giovane falegname di Galilea l'aveva espressa in modo molto più forte e, agli occhi della elite religiosa del tempo, era eretico. Infatti, anche se la liberazione della donna non era il suo obiettivo principale, se consideriamo la predicazione di Gesù nella nuova prospettiva della teoria della trasformazione culturale, ci accorgiamo di un tema sorprendente e unificante, una visione della liberazione di tutta l'umanità tramite la sostituzione dei valori androcratici con quelli gilanici. Gli scritti del Nuovo Testamento, attribuiti ai discepoli che avevano con ogni probabilità conosciuto personalmente Gesù, vengono generalmente considerati la miglior fonte sul vero Gesù, nonostante fossero stati scritti anni dopo la morte di Gesù. Stiamo parlando di Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Senza dubbio, con molte modifiche, sono i testi che probabilmente rispecchiano nel modo più preciso gli insegnamenti del Cristo, più di altre parti. Per capire meglio la vera natura del cristianesimo antico, dobbiamo abbandonare i testi ufficiali del Nuovo Testamento e rivolgerci ad altri documenti cristiani, alcuni dei quali scoperti solo di recente. Tra questi, i più importanti e significativi sono i 52 Vangeli gnostici disotterrati nel 1945 a Nag Hammadi, una remota provincia dell'Alto Egitto. Elaine Pagels, docente di studi religiosi a Princeton, scrive nel suo libro The Gnostic Gospels che coloro che scrissero e diffusero questi testi non si consideravano degli eretici. Tuttavia, molto di ciò che si conosceva fino ad allora su questi testi, tra virgolette, eretici, era merito degli uomini che li attaccarono, che difficilmente si può ritenere ci dessero una visione obiettiva. Infatti, gli uomini che a partire dal 200 d.C. circa presero il controllo di quella che sarebbe poi stata chiamata Chiesa ortodossa, vale a dire l'unica vera Chiesa, ordinarono che tutte le copie di questi testi fossero distrutte. Ma come scrive Elaine Pagels, qualcuno, probabilmente un monaco del vicino monastero di San Pacomio, prese i libri messi al bando e li salvò dalla distruzione nascondendoli nel vaso in cui sarebbero rimasti sepolti per quasi 1600 anni. E per una serie di eventi che sembrano quelli di un giallo, passarono altri 34 anni dalla scoperta di questi Vangeli gnostici occultati, prima che gli studiosi finissero di studiarli e il libro della Pagels li segnalasse finalmente all'attenzione del pubblico nel 1979. Alcune di queste sacre scritture cristiane scoperte di recente sono più antiche dei Vangeli del Nuovo Testamento. risalgono probabilmente a una data antecedente, la seconda metà del primo secolo, quindi tra il 50 e il 100 d.C., lo stesso periodo forse prima di Marco, Matteo, Luca e Giovanni. I Vangeli gnostici vennero dunque scritti in un'epoca in cui l'androcrazia era già stata la norma dell'Occidente per un periodo di tempo molto lungo. Non sono documenti gilanici, tuttavia in essi c'è una sfida poderosa alle norme di una società dominatore. Il termine gnostico deriva dalla parola greca gnosis, conoscenza. È l'opposto del termine tuttora molto usato, agnostico, che indica chi ritiene che una tale conoscenza non possa essere percepita con certezza oppure che essa sia irraggiungibile. Come altre tradizioni religiose mistiche occidentali e orientali, il cristianesimo gnostico sosteneva l'idea, apparentemente non eretica, che il mistero della verità suprema o divina possa essere conosciuto da chiunque grazie a una disciplina religiosa e una condotta di vita morale. Cosa c'era dunque di tanto eretico nell'ognosticismo da farlo condannare al bando? Beh, in particolare quella che troviamo nei Vangeli gnostici è la stessa idea che spinse la casta sacerdotale ebraica a insultare e a sopprimere Gesù. Si tratta della concezione per cui la divinità non deve essere mediata da una gerarchia religiosa guidata da un rabbino capo, da un alto prelato o da un papa. È invece accessibile direttamente tramite l'agnosi, la conoscenza divina, senza bisogno di rendere omaggio o pagare decime a una classe sacerdotale autoritaria che faccia da intermediaria. In queste scritture, tenute nascoste dalle classi sacerdotali cristiane ortodosse, tra virgolette, troviamo anche conferma a una congettura che da molto tempo si andava formulando grazie a una lettura dei testi ufficiali e dei primi frammenti gnostici rinvenuti. Maria Maddalena era una delle figure più importanti del primo movimento cristiano. Nel Vangelo di Maria leggiamo nuovamente che ella fu la prima a vedere Cristo risorto, come viene detto di sfuggita anche nei Vangeli ufficiali di Marco e Giovanni. Apprendiamo anche che Cristo amava Maria Maddalena più di ogni altro suo discepolo, come viene confermato anche nel Vangelo gnostico di Filippo. Ma l'importanza del ruolo svolto da Maria nella storia del primo cristianesimo viene alla luce solo in queste scritture nascoste. Nel Vangelo di Maria è scritto che dopo la morte di Gesù, Maria Maddalena fu la guida cristiana che ebbe il coraggio di sfidare l'autorità di Pietro, il capo di una nuova gerarchia religiosa fondata sulla pretesa che solo lui e i suoi sacerdoti e vescovi avevano un collegamento diretto con Dio. Consideriamo le implicazioni politiche del Vangelo di Maria, commenta Elaine Pagels. Come Maria si oppose a Pietro, così gli gnostici, che la prendono a modello, sfidano l'autorità dei sacerdoti e dei vescovi che pretendono di essere i successori di Pietro. Esistevano altre differenze ugualmente importanti tra la emergente Chiesa di Pietro, sempre più gerarchica, e altre antiche comunità cristiane. La maggioranza degli gnostici e sette come i montanisti e i marcioniti. Queste sette, all'opposto degli uomini che oggi vengono definiti padri della Chiesa, veneravano le donne come discepole, profetesse e fondatrici del cristianesimo. Osservavano scrupolosamente gli insegnamenti di Gesù sull'eguaglianza spirituale e ammettevano le donne nella loro classe dirigente. Alcune sette gnostiche, evidenziando ancora più il fondamentale principio gilanico di unione, per evitare il consolidarsi di gerarchie permanenti a ogni assemblea, eleggevano la loro classe dirigente tramite votazione. Queste notizie provengono dagli scritti di nemici dell'ognosticismo, come il vescovo Ireneo, che era capo della chiesa di Lione intorno al 180 d.C. In un'epoca in cui l'ortodossia cristiana distingueva sempre più il clero dai laici, scrive Elaine Pagels, questo gruppo di cristiani gnostici mostrava chiaramente che al suo interno si rifiutava di riconoscere una simile distinzione. Invece di classificare i propri membri di ordini inferiori e superiori all'interno di una gerarchia, essi osservavano il principio dell'uguaglianza stretta. Tutti gli iniziati, tanto le donne quanto gli uomini, partecipavano ugualmente al sorteggio. Chiunque poteva venire scelto per servire come sacerdote, sacerdotessa, profeta, profetessa o anche vescovo o vescova. Inoltre, siccome a ogni assemblea facevano un sorteggio, persino le distinzioni volute dalla sorte non potevano mai trasformarsi in ranghi permanenti. Per i cristiani androcratici che ovunque si stavano impadronendo del potere su basi gerarchiche, tali pratiche erano orribili abominazioni. Per esempio, Tertulliano, che scriveva pressappoco nel 190 d.C. per la parte ortodossa, si scandalizzava perché essi hanno tutti accesso da uguali, ascoltano da uguali, pregano da uguali, persino i pagani, se capita che ve ne siano. E inorridiva anche perché essi scambiano il bacio della pace con tutti i presenti. Ma ciò che scandalizzava maggiormente Tertulliano, comprensibilmente visto che minacciava le fondamenta stesse dell'infrastruttura gerarchica che lui e i suoi colleghi vescovi stavano cercando di imporre alla Chiesa, era la posizione paritaria delle donne. Tertulliano si scaglia in particolar modo contro la partecipazione di quelle donne tra gli eretici che condividevano con gli uomini posizioni di comando, nota Elaine Pagels. Esse insegnano, partecipano alle discussioni, praticano esorcismi e guarigioni. Egli sospetta addirittura che queste donne potessero battezzare, il che avrebbe significato che avevano anche la funzione di vescove. Per uomini come Tertulliano c'era solo una eresia, addirittura più grande dell'idea di uguaglianza spirituale di uomini e donne. Si trattava dell'idea che minacciava alla base il crescente potere degli uomini che si stavano ormai elevando a nuovi principi della Chiesa, l'idea di una divinità femminile. E questo, come si può ancora leggere nei Vangeli gnostici e in altri documenti sacri cristiani, non inclusi nelle scritture ufficiali del Nuovo Testamento, naturalmente, era esattamente ciò che predicavano alcuni tra i primi seguaci di Gesù. Seguendo la precedente tradizione, apparentemente ancora viva, in cui la Dea era considerata come madre e onnidispensatrice, i seguaci di Valentino e Marco pregavano la madre come silenzio eterno e mistico, come grazia, colei che precede tutte le cose, e come saggezza incorruttibile. In un altro testo, la Protennoia Trimorfa, letteralmente il pensiero primevo dalla triplice forma, troviamo un'esaltazione di poteri come il pensiero, l'intelligenza e la preveggenza che erano considerati femminili, seguendo ancora una volta la tradizione per cui questi poteri si ritenevano attributi della Dea. Il testo inizia con una figura divina che proclama: «Sono Protennoia, il pensiero che dimora nella luce, colei che esiste innanzi al tutto. Mi muovo in ogni creatura. Sono percezione e conoscenza che manifesta una voce per mezzo del pensiero. Io sono la vera voce». In un altro testo attribuito al maestro gnostico Simon Mago, lo stesso paradiso, il luogo ove ebbe inizio la vita, viene descritto come grembo della madre. E in scritti attribuiti a Marco o Teodoto, circa 160 d.C., leggiamo che gli elementi femminili e maschili insieme costituiscono la più eccellente produzione della madre saggezza. Qualsiasi forma abbiano assunto queste eresie, derivavano chiaramente dalla precedente tradizione religiosa, quando si adorava la Dea e le sacerdotesse erano le sue rappresentanti terrene. Di conseguenza, la saggezza divina era quasi sempre personificata come femminile, come avviene tuttora in parole femminili come l'ebraico Hokmah e il greco Sofia, che significano entrambe saggezza o conoscenza divina, oltre che in altre antiche tradizioni mistiche sia occidentali che orientali. Un'altra caratteristica di queste eresie era il modo poco ortodosso con cui descrivevano la Sacra Famiglia. Un gruppo di fonti gnostiche sostiene di avere ricevuto una tradizione segreta attraverso Giacomo e Maria Maddalena, riferisce Elaine Pagels. I membri di questo gruppo pregavano rivolgendosi sia a un padre che a una madre divini. Da te padre e grazie a te madre, i due nomi immortali, genitori dell'essere divino, e tu che dimori nel cielo, umanità dal possente nome. Analogamente il maestro e poeta Valentino insegnava che sebbene la divinità sia essenzialmente indescrivibile, il divino può essere immaginato come una diade costituita dai due principi maschile e femminile. Altri erano più letterali e sostenevano che il divino dovesse essere considerato androgino. Oppure reputavano femminile lo Spirito Santo, cosicché nei termini della Trinità cattolica tradizionale, dall'unione del Padre con lo Spirito Santo o Madre Divina derivava il Figlio, il Cristo Messia. Questi primi cristiani non solo costituivano una minaccia per il potere crescente dei padri della Chiesa, le loro idee erano anche una sfida diretta alla famiglia dominata dal maschio e seminavano l'autorità voluta da Dio dell'uomo sulla donna, fondamento della famiglia patriarcale. I biblisti hanno spesso notato che il cristianesimo antico era considerato una minaccia, sia dalle autorità ebree che da quelle romane. E non solamente a causa del rifiuto dei cristiani di adorare l'imperatore e di essere fedeli allo Stato. Un motivo ancora più forte che portava a giudicare gli insegnamenti di Gesù pericolosamente radicali era che questi, nel considerare le donne persone a tutti gli effetti, mettevano in discussione le tradizioni familiari dell'epoca. La minaccia fondamentale era la mancanza di rispetto dei primi cristiani verso le strutture familiari del loro tempo, sia ebree che romane, nelle quali la donna era subordinata. Se consideriamo la famiglia un microcosmo del mondo più vasto, nonché l'unico mondo che un bambino piccolo e influenzabile conosce, questa, tra virgolette, mancanza di rispetto per la famiglia dominata dal maschio, ove la parola del padre è legge, può essere vista come una minaccia gravissima a un sistema basato sulla gerarchizzazione sostenuta dalla violenza. Ci sono diverse e interessanti somiglianze tra la nostra epoca e quegli anni turbolenti, quando il formidabile impero romano, una delle più potenti società a modello dominatore di tutti i tempi, cominciava a disgregarsi. Sono entrambi periodi che i teorici del caos definiscono stati di crescente squilibrio dei sistemi, epoche in cui si verificano mutamenti di sistema repentini e imprevedibili. Se consideriamo gli anni immediatamente precedenti e quelli immediatamente successivi, la morte di Gesù, nella prospettiva di un conflitto in atto tra Gilania e Androcrazia, scopriamo che questo era un periodo, proprio come il nostro, di forte rinascita gilanica. Ma mentre si sfidavano le divisioni gerarchiche androcratiche fondate sulla forza, mentre i primi cristiani abbracciavano la non violenza e predicavano la pace e la carità, Roma diventava ancora più dispotica e violenta. Come rivelano fin troppo chiaramente gli eccessi dei suoi imperatori, tra cui il cristiano Costantino e i famosi giochi circensi dell'impero romano, la sfida gilanica a questa crudele società dominatore fallì. Persino all'interno dello stesso cristianesimo, la Gilania non era destinata al successo. Nonostante la precedente attività pubblica delle donne cristiane, osserva Elaine Pagels, già nel 200 la maggior parte delle comunità cristiane considerava canonica la lettera pseudo-paolina di Timoteo che sottolinea ed esaspera l'elemento antifemminista delle idee di Paolo, che la donna impari in silenzio, in completa sottomissione, non permetto che la donna insegni o abbia autorità sull'uomo, ella deve osservare il silenzio. Entro la fine del secondo secolo, la partecipazione delle donne al culto era esplicitamente condannata, i gruppi in cui esse continuavano a conservare l'autorità erano tacciati di eresia. Prosegue Elaine Pagels, chiunque approfondisca la storia più antica del cristianesimo, la cosiddetta patristica, ovvero lo studio dei cosiddetti padri della Chiesa, non si stupirà del passo che conclude il Vangelo di Tommaso, ossia Simon Pietro disse loro, i discepoli, che Maria ci abbandoni, che le donne non son degne della vita. Gesù disse, la guiderò io stesso per trasformarla in uomo, affinché anche ella possa divenire uno spirito vivente, assomigliando a voi uomini, poiché ogni donna che diverrà simile a un uomo otterrà il regno dei cieli. Affermare in modo così assoluto che una metà dell'umanità non è degna di vivere, per di più, paradossalmente proprio quella metà dal cui corpo la vita proviene, ha un senso solo nel contesto della regressione e della repressione androcratica ormai in atto. Serve a dimostrare ciò che tanti di noi percepivano interiormente senza riuscire a esprimerlo con chiarezza. Qualcosa nell'originale dottrina cristiana dell'amore è andato tragicamente per traverso. Altrimenti com'è possibile che una simile dottrina sia stata usata per giustificare tutte le torture, le conquiste, i massacri perpetrati da devoti cristiani contro gli altri e contro se stessi, che costituiscono gran parte della storia occidentale. Perché alla fine del mondo occidentale ci fu un imprevedibile e drammatico mutamento dei sistemi? Dal caos della disgregazione del mondo classico di Roma prese forma una nuova era. Quello che era iniziato come un piccolo culto misterico diventò la nuova religione dell'Occidente, ma nonostante il suo messaggio fosse costantemente volto alla trasformazione sia del sé che della società, invece di cambiare quest'ultima, l'invasore periferico fu a sua volta trasformato. Come capitò a molte religioni del passato e a quasi tutte quelle successive, il cristianesimo divenne una religione androcratica e l'impero romano fu sostituito dal Sacro Romano Impero. Già nel 200 d.C., in questo caso esemplare di spiritualità capovolta, il cristianesimo era ben avviato a diventare quel tipo di sistema gerarchico e basato sulla violenza contro cui Gesù si era ribellato. E dopo la conversione dell'imperatore Costantino, il cristianesimo diventò un potere ufficiale, vale a dire un servo dello Stato. Come scrive Elaine Pagels, quando nel IV secolo il cristianesimo divenne la religione ufficiale, i vescovi cristiani, in precedenza vittime della polizia, cominciarono a comandarla. Le storie cristiane narrano che nel 312 d.C., il giorno prima di sconfiggere e uccidere il suo rivale Massenzio e di essere incoronato imperatore, Costantino vide nel sole al tramonto una visione mandata da Dio, una croce con l'iscrizione «In hoc signo victor seris». In questo segno vincerai. Ciò che gli studiosi cristiani di storia solitamente non riferiscono è che pare anche che il primo imperatore cristiano abbia fatto bollire viva la moglie Fausta e ordinato l'assassinio del figlio Crispo. Ma il bagno di sangue e la repressione che accompagnarono la cristianizzazione dell'Europa non si limitarono alle vicende private di Costantino, ma neppure si ridussero ai suoi atti pubblici e a quelli dei suoi successori cristiani, come i successivi editti che dichiaravano che l'eresia verso la Chiesa ora era un atto sedizioso, punibile con la tortura e la morte. I leader della Chiesa stavano ormai per adottare la consuetudine di ordinare la tortura e l'esecuzione di coloro che non volevano accettare il nuovo ordine. Un'altra pratica diffusa sarebbe stata quella di sopprimere sistematicamente tutte le informazioni eretiche che avrebbero potuto ipoteticamente minacciare la nuova sovranità della gerarchia androcratica. Anziché essere puro spirito e allo stesso tempo madre e padre, Dio era adesso dichiaratamente maschio. E come avrebbe continuato a sostenere Papa Paolo VI quasi 2000 anni dopo, nel 1977, alle donne era precluso il sacerdozio perché Nostro Signore era un uomo. Allo stesso tempo, i Vangeli gnostici e altri testi simili che all'inizio dell'era cristiana circolavano liberamente tra le comunità cristiane venivano messi al bando e distrutti perché eretici da coloro che si autodefinivano la Chiesa ortodossa, ovvero l'unica legittima. Come scrive Elaine Pagels, tutte queste fonti, dottrine segrete, rivelazioni, insegnamenti mistici, non sono tra quelle incluse nella lista selezionata che costituisce la raccolta del Nuovo Testamento. Tutti i testi segreti venerati dalle comunità gnostiche furono omessi dalla raccolta canonica e bollati come eretici da quelli che si autodefinivano cristiani ortodossi. Quando fu ultimato il processo di cernita dei vari scritti, probabilmente non prima dell'anno 200, praticamente tutte le immagini femminili di Dio erano scomparse dalla tradizione ortodossa. Questa accusa di eresia ai cristiani che credevano nell'uguaglianza da parte dei loro correligionari è particolarmente paradossale, visto che nelle prime comunità apostoliche uomini e donne vivevano e lavoravano secondo i comandamenti di Gesù, praticando l'agapè, l'amore fraterno. Ed è ancora più paradossale se consideriamo che molti di costoro che vivevano e lavoravano fianco a fianco avevano affrontato la morte come martiri cristiani, ma per gli uomini che ovunque stavano usando il cristianesimo per stabilire il loro dominio, la vita e l'ideologia cristiana dovevano essere concepite in modo da adattarsi al modello androcratico. E con il passare degli anni, la cristianizzazione dei pagani in Europa divenne un pretesto per ripristinare nuovamente il principio dominatore per cui la forza legittima il diritto. Ciò non solo imponeva la sconfitta o la conversione forzata di tutti coloro che non avevano abbracciato la cristianità ufficiale, Comportava anche la distruzione di templi, santuari e idoli pagani, tra virgolette, nonché la chiusura delle accademie greche, ove continuavano gli studi eretici. La Chiesa dimostrò trionfalmente che la forza legittima il diritto morale. E fino al Rinascimento, più di 1000 anni dopo, in Europa praticamente scomparve qualsiasi espressione artistica o ricerca di conoscenza empirica che non fosse benedetta dalla Chiesa, ossia autorizzata. E la distruzione del sapere che ancora restava fu totale, grazie anche al rogo in massa dei libri. Ella si estese anche fuori dall'Europa, ovunque potesse arrivare l'autorità cristiana. Così nel 391 d.C., sotto Teodosio, i cristiani, ormai completamente androcraticizzati, bruciarono la grande biblioteca di Alessandria, uno degli ultimi ricettacoli del sapere e della saggezza degli antichi. E aiutati e istigati dall'uomo che sarebbe stato in seguito canonizzato come San Cirillo, vescovo di Alessandria, i monaci cristiani fecero a pezzi con gusci di conchiglia Ipazia, insigne matematica, astronoma e filosofa della scuola neoplatonica di Alessandria. Infatti, quest'ultima, oggi riconosciuta come una delle più grandi erudite di tutti i tempi, secondo Cirillo era una femmina iniqua che aveva addirittura preteso contro i comandamenti di Dio di insegnare ai maschi. Nelle scritture approvate ufficialmente i dogmi paolini, o pseudo-paolini, come gli studiosi stanno ormai dimostrando, riaffermavano autoritariamente che la donna e tutto ciò che viene classificato come femminile è inferiore e talmente pericoloso da dover essere tenuto sotto stretto controllo. C'erano ancora alcune eccezioni, in particolare gli scritti di Clemente d'Alessandria, che continuava ad attribuire a Dio una duplice carattere maschile e femminile, e scrisse che il termine umanità accomuna uomini e donne, ma per lo più il modello di rapporti umani proposto da Gesù, in cui maschio e femmina, ricco e povero, gentile e giudeo sono tutt'uno, fu epurato dalle ideologie e anche dalle pratiche quotidiane dell'ortodossia cristiana. Gli uomini che controllavano la nuova chiesa ortodossa potevano sollevare nel rito l'antico calice, ora divenuto la coppa della santa comunione, riempita simbolicamente con il sangue di Cristo, ma in effetti ciò che incombeva su tutto era di nuovo la spada. Sotto la lama e il fuoco dell'alleanza tra la Chiesa e la classe al potere non soccombevano solo pagani, mitraisti, ebrei o devoti delle antiche religioni misteriche di Eleusi e Delfi, ma anche tutti quei cristiani che non si piegavano ad accettare il nuovo dominio. La Chiesa continuava a sostenere che il proprio scopo era la diffusione della dottrina dell'amore di Gesù, ma con l'orrore e la brutalità delle crociate, delle cacce alle streghe, dell'Inquisizione, dei roghi di libri e di esseri umani. Essa non diffondeva amore, bensì i soliti prodotti dell'androcrazia, repressione, devastazione e morte. Il cristianesimo medievale, distorcendo e alterando gli insegnamenti di Gesù, fu in realtà un arretramento morale. Anziché continuare a rappresentare una minaccia per l'ordine costituito androcratico, il cristianesimo si trasformò in ciò che, per quanto avviatesi nel nome dell'illuminazione e della libertà spirituale, sono diventate praticamente tutte le religioni del mondo, un modo formidabile di perpetuare quell'ordine. Tuttavia, la lotta tra Gilania e Androcrazia era lungi dall'essere conclusa. In alcuni periodi, in alcune località, durante i secoli bui del cristianesimo androcratico e dei re e papi dispotici che dominarono l'Europa in suo nome, sarebbe riemersa la spinta gilanica per una ripresa della nostra evoluzione culturale. Come vedremo, questa continua lotta è stata la forza nascosta più determinante nel condizionare la storia occidentale e al giorno d'oggi sta nuovamente per giungere a un punto culminante.